Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Alle 8:28 minuti, con cospicuo anticipo, inizia questa puntata di Si può fare, e ovviamente con cospicuo anticipo diamo il buongiorno anche a Carlo Gabardini dalle sue Lande. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Laura, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e soprattutto buon 25 aprile. È giusto, buon 25 aprile a te, buon 25 aprile a tutti, buona giornata della liberazione, sia pur no, sempre con le limitazioni che abbiamo da quando era carnevale. Quindi stiamo mettendo tutti i punti, no, della primavera, li stiamo unendo con... Stai mettendo tutte le festività. Sì, c'è anche il 1° maggio, la settimana prossima. Anche quella la trascorreremo indoor, tutti quanti indoor, però dai, stiamo resistendo, e poi tra l'altro è la giornata giusta per resistere, no? È la giornata giusta, esatto. E dunque, che dirti, Carlo? Oggi ricordo ai nostri ascoltatori che è la giornata nella quale si partecipa al quiz, si vincono dei libri, come sempre in questo periodo, e il modo per partecipare al quiz è quello di telefonare e prenotarsi all'800 24 00 24. Invece per tutti i messaggi WhatsApp, SMS o anche volendo Telegram c'è sempre il 349 238 6666. Non so, ricordo che io sono a Milano, ma confinato a casa, leggo gli SMS, non leggo i WhatsApp. Questo lo dicevo solo per precisare, perché dopo il tuo dalle tue Lande, ovviamente ho già avuto dei messaggini di gente che mi dice: dove sei andato? Sei partito? Magari. Sei fuori Milano? No, sono a Milano nel mio appartamento, anzi in affitto sono. Quindi dici che c'è rischio che non ci ritroviamo la settimana prossima? Esatto, esattamente. Allora, se hai letto gli SMS, hai letto che abbiamo già ricevuto, diciamo così, dei complimenti ancora prima di andare in onda, no? Perché c'è gente che ci aspetta al varco e ci saluta ancora prima di andare in onda. Alle 8:15, pronto sul pezzo il nostro solito amico. Ma detto questo, 824 0024 per i quiz, cose belle in questa settimana, te ne è successa qualcuna? Me ne sono successe, sì, è sempre difficile, ma diciamo la cosa secondo me più importante è quella che è successa 75 anni fa. Oggi è il 25 aprile, appunto, e esattamente 75 anni fa l'Italia veniva liberata definitivamente dalla dittatura fascista, ed è bene che se ne ricordino anche i sovranisti, perché noi siamo stati liberati anche dall'occupazione nazista, quella c'era il 25 aprile. Per la prima volta da quando sono nato non c'è permesso uscire di casa e assembrarci in piazza, abbracciarci, guardarci negli occhi, festeggiare cantando assieme. Mi mancherà moltissimo, lo devo ammettere, perché una nazione si riconosce dalle proprie ricorrenze, dalle date che ci uniscono, da una storia comune che non va dimenticata. Poi, come ogni anno, abbiamo visto che anche quest'anno, insomma, c'è qualche deputato o senatore stupidotto che prova a infangare la memoria, a buttarla in caciara, perché da sempre vorrebbe cancellata questa festa. Si distingue colui che, nel vergognoso tentativo di sfruttare ancora una volta il virus, ha detto il 25 aprile sia la giornata di tutti i caduti, anche di quelli del coronavirus. Andrebbe ricordato che il 25 aprile non è affatto la festa dei caduti, ma la liberazione da 20 anni di dittatura. E la buona notizia, giustamente, che tu mi chiedi, è che la festa c'è, si farà. Sarà nei nostri pensieri, sui nostri balconi, nelle storie che racconteremo in famiglia ai più giovani, nel cantare Bella Ciao alle 15, e anche online si festeggerà. Infatti, dopo noi ne parleremo sia con gli alpini, sia con Carlo Petrini. Il 25 aprile non è questione di sinistra o di destra, nessun democratico può essere scontento o non voler festeggiare la caduta di una dittatura. Dittatura vuol dire un singolo che decide ciò che gli passa per la testa, nessun parlamento, sopraffazione, leggi razziali, autoritarismo, carcere o morte per chi dissente, credere, obbedire, combattere e scendere in guerra a braccetto coi nazisti. E come si fa a non essere contenti che tutto questo sia finito? A chi sta pensando? Mussolini ha fatto anche cose buone, a parte così un partigiano e chi se ne frega anche, però viene voglia di rispondere: ma ci mancherebbe altro, in 20 anni? Se in 20 anni di potere assoluto non riesci a fare nemmeno una cosa buona, beh, sei peggio di un virus. Perché anche il Covid ha diminuito il traffico, anche il Covid ha potenziato lo smart working, ma nessuno si sognerebbe di rimpiangerlo quando tutti insieme lo sconfiggeremo. Molte delle libertà, tra l'altro, che ci vediamo negate proprio in questi giorni di emergenza, la libertà di riunirsi, di circolare, di manifestare, di scendere in piazza, ecco, nascono direttamente dalla liberazione e dalla conseguente costituzione. Quindi io direi, non dimentichiamoci quanto fa schifo vivere sotto una dittatura, e buon 25 aprile a tutti. E buon 25 aprile a tutti. Come tu anticipavi, ne parleremo anche con gli alpini molto impegnati, no? L'Associazione Nazionale, certo, Alpini, molto impegnati in questi giorni con opere di solidarietà, in particolare a Bergamo, ma anche in molte altre località del Veneto. Ne parleremo anche con Carlin Petrini, che è uno dei promotori di questa iniziativa 25aprile2020.it, che sarà trasmessa nel corso del pomeriggio, ed è un'iniziativa di solidarietà, quindi non solo ricorda la festa della liberazione del 25 di aprile, ma anche una raccolta fondi per coloro che in questo momento stanno soffrendo, che sono in condizioni di povertà o che ci stanno entrando purtroppo in condizioni di povertà per la situazione che stiamo vivendo. Ne parleremo, appunto, ne parleremo senz'altro. Ricordo che anche su questi temi si può intervenire all'824-0024. Ci sono già diverse persone che si sono prenotate però per il quiz, quindi tra non molto cominceremo sicuramente a sentirle. E Carlo, io invece di cose belle in tempi brutti, sai, oltre a quelle che si vivono in casa quotidianamente, no? Voglio dire, ne abbiamo già parlato, i vicini di casa, i ritrovi dal balcone con i condomini, gli amici, vorrei segnalare anche proprio, certo, quello che accade in famiglia, perché dopo così tanto tempo insieme le cose possono andare male, ma in realtà a volte si scoprono delle nuove dinamiche. Io voglio essere sincera e dire che con le mie figlie in questo periodo mi diverto da morire. Beh, facciamo delle grasse risate su molte cose, perché ovviamente condividiamo molto di più. E prima c'era la scuola, lo sport, loro passavano molto tempo anche fuori casa, adesso passiamo molto tempo insieme e abbiamo un po' quel lessico familiare, no? Che ci fa sorridere, che ci fa a volte grande, cioè, insomma, ci fa veramente sganasciare dalle risate, perché scopriamo tutti i piccoli difetti. Credo che lo potrei mettere tra le cose belle in questi tempi brutti, aver riscoperto o avere creato nuovi legami con i familiari con i quali trascorriamo molto tempo. Su un tema vorrei, certo che sì, no? Vorrei portare invece gli ascoltatori anche su un altro tema, che è quello della fase 2. Perché? Perché oggi si sono pieni i giornali ovviamente di quello che è le possibilità che avremo, no? da maggio, e una delle possibilità sarà quella di ingorgarci nel traffico, nelle grandi città in particolar modo, perché nessuno prenderà più i mezzi pubblici. Perché comunque chi lo vorrà fare dovrà fare delle lunghe attese, quindi il rischio è che tanti si rimettano al volante tutti insieme. Io non so, tu non guidi, Carlo, quindi dovrai fare in qualche modo. Come farai? Io non guido assolutamente, però scusami, volevo agganciarmi a quello che dicevi prima. Trovo assolutamente che una socialità e una vita familiare ritrovata sia una cosa bella in tempi brutti, e volevo anche accodarmi alla richiesta che fai ai nostri ascoltatori: chiamateci assolutamente anche oggi per dirci le vostre cose buone in tempi brutti o cose belle in tempi brutti, e chiamateci anche per dirci come passerete questo 25 aprile, che da 75 anni ci vedeva tendenzialmente sempre fuori in piazza tutti assieme, e invece che cosa farete quest'anno? Ci interessa saperlo, ci interessa moltissimo sapere cosa vuol dire per voi 25 aprile, e magari appunto che cosa racconterete ai vostri figli o nipoti, magari in chat, ma comunque per onorare questa festa. Sai, Carlo, che anche sulla ripresa invece, se volete, no, dirci le vostre perplessità, ben volentieri. Abbiamo però già la prima concorrente, che si chiama Marta, ha chiamato dalla provincia di Monza Brianza, quindi prepariamoci per il primo quiz di giornata. Ed ovviamente quella meno pronta sono io, perché devo andare a cercare il testo del quiz, e tu, Carlo, hai tutto pronto invece. Ho tutto pronto, se vuoi vado io. No, no, adesso intanto sentiamo Marta, l'ho trovato. Marta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Marta. Allora, buongiorno Marta. Si ricorda, no, come funziona? Sì, sì, vi ascolto, quindi sì, mi ricordo. Benissimo. Allora, leggiamo il testo. In tempi di isolamento forzato sentiamo la mancanza delle cose più inaspettate. Un'agenzia tedesca ha realizzato un sito web molto particolare dedicato a chi sente la nostalgia di una vita normale. Che cosa fa questo sito? Risposta numero uno: raccoglie fotografie di scarpe che hanno pestato cacche di cane. Risposta numero due: simula l'esperienza di rimanere imbottigliati nel traffico. Risposta numero tre: riproduce i rumori dell'ufficio, squilli di telefono, passi, brusii. Che dice? Porca, sono tutte e tre che piuttosto dici? Curiose. Dunque, la prima era le scarpe, cioè la seconda era il traffico, la terza i rumori d'ufficio. Esatto. Esattamente. La 2. La 2. Sei stata forse traviata dal fatto che prima abbiamo parlato di traffico e della questione di rivederci tutti imbottigliati, ma non è quello che manca di più, mentre un po' il rumore dell'ufficio, gli squilli del telefono, i passi, i brusii, anche per abituarci a questo smart working, è quello. È quello che fa questo sito è che riproduce i rumori tipici di un ufficio. Vabbè, io non so se uno proprio ne senta così tanto la mancanza, ma magari in Germania, non lo so, cioè, capisco la mancanza del lavoro, ma magari i rumori dell'ufficio non sempre sono gradevoli, ecco. Marta, grazie molte. Buona giornata a lei, grazie Marta. Allora, buona giornata. Io non so, a te cosa ti manca, i rumori dell'ufficio in quel senso lì, no? No, neanche a me proprio traffico. Quello per niente, mi manca nemmeno il traffico, nemmeno le cacche di cane. Sicuramente mi mancano gli abbracci, il fatto di potersi parlare a 3 centimetri. Perché ogni tanto ci penso a questa cosa della fase 2, che giustamente tu dicevi che cosa succederà. In realtà la cosa che più mi preoccupa, e proprio per noi italiani, è che modificherà un sacco la socialità. Io sono abituato che appena incontro qualcuno lo abbraccio, gli tocco il braccio, e invece tutta questa cosa qua verrà giustamente direi frenata. Cioè diventeremo un po' più svedesi, un po' più nordici, un po' più che ci salutiamo a distanza, e questa cosa mi spiace molto. Sì, non è certo nelle nostre abitudini, dovremmo frenarci. Prima di presentare ai nostri ascoltatori il nostro ospite che è già in linea, ti dico che tra le cose belle in tempi brutti c'è qualcuno che ha un po' copiato o mutuato l'idea del preside Trezzi, perché dice che ha una relazione speciale con sua suocera, ogni giorno le telefona, lei ha 85 anni e legge un capitolo di un romanzo, ormai sono arrivati al terzo, una bella mezz'ora che ci cala in altre storie e ci fa viaggiare con la mente, vedi le cose belle in tempi bellissima. Brutti. Qualcosa si muove, no? Come dicevamo, i legami familiari e anche la riscoperta magari di un romanzo insieme alla suocera, in questo caso, incredibile, no? Di solito nelle barzellette sempre la suocera è il fumo negli occhi, e in questo caso invece c'è un rapporto evidentemente molto buono. Sono curioso di sapere che romanzo è, cioè se è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, per esempio, non lo sappiamo. Beh, speriamo abbia scelto qualcosa di un po' più... un po' di un altro tipo, un po' più da suocera, dici? Ma no, non solo da suocera, un po' più tranquillizzante, oppure qualcosa che evoca, non so, insomma, ecco, non spaventi. Chiediamo all'ascoltatore di farci sapere che romanzo legge. Precisamente. Senti, invece in tema di fase 2 vorrei presentarti Andrea Boragno, che è il CEO e presidente di Alcantara S.p.A. Buongiorno. E invece l'abbiamo perso. Beh, io intanto vi dico chi è. Appunto, è CEO e presidente di Alcantara, che è un'azienda che noi conosciamo perché produce questo tessuto che viene utilizzato per la moda, per rivestimenti di auto, per rivestimenti anche di poltrone, per esempio. Ed è un'azienda in Umbria che ha già ripreso a lavorare. In Umbria c'è tra l'altro una situazione più tranquilla rispetto ad altre parti d'Italia, ma non solo ha ripreso a lavorare, ha ripreso facendo anche dei test sierologici di cui si parla molto. Andrea Boragno adesso ci sente, buongiorno. Sì, buongiorno. Infatti, abbiamo sentito tutto. Buongiorno. Tu. Dunque dicevo appunto che voi avete già ripreso a lavorare, la situazione in Umbria è un po' diversa, ma ovviamente le cautele sono necessarie anche lì. Avete ripreso con mascherine, guanti, occhiali e anche i test. Sì, e ci incuriosiva un po' sapere appunto, visto che a livello nazionale se ne parla tanto, ma pochi li fanno, insomma, voi invece li fate. Noi abbiamo deciso di farli perché anche se era scontato che questi test incorporano una certa percentuale di errore, ancorché minima, cioè non di meno possono essere utilizzati per ridurre sensibilmente il rischio di contagio, e quindi in questa prospettiva non li abbiamo utilizzati. E accanto quindi ai protocolli stabiliti a livello nazionale dalla Confindustria e dai sindacati, abbiamo voluto che sono stati applicati in modo molto molto severo, molto rigido, quindi mascherine, quindi occhiali, quindi guanti, quindi misurazione della temperatura, quindi estrema attenzione agli spazi di sicurezza, cartellonistica, che significa informativa continua ai lavoratori sul posto di lavoro, estrema attenzione ai posti più critici per un possibile contagio, mense, eccetera. Abbiamo voluto inserire un qualcosa in più, che è questi test sierologici rapidi, che rispondono alla esigenza di voler mappare il fenomeno, perché di fronte al nemico la prima cosa bisogna sapere dove è mapparlo, e quindi questi test sierologici, che per il momento hanno dato sempre esito positivo, sono stati adottati a partire da positivo nel senso che è andato tutto bene, insomma. Positivo nel senso che era negativo, sì, esattamente. Ma i test sierologici sono quelli degli anticorpi, scusa Carlo, solo per quelli che vanno a valutare. No, esatto, guarda, era la stessa, era la stessa domanda che volevo fare io. Sì, ecco, sì, allora, visto che c'è, sono anticorpi di due natura, degli IG e IgM, uno ti dice se sei stato a contatto con il virus, un altro ti dice se il virus è attivo. E comunque nel nostro caso, quando troviamo un anticorpo positivo, sia di un tipo che nell'altro, viene fatto il tampone, no? In tempi rapidi, e viene gestito dall'ASL a questo punto. Ok, e ma poi scusi, eventualmente... Quando dice tempi rapidi? Com'è? Quando dice tempi rapidi, cioè intende, quando dice tempi rapidi, intende che tutti i giorni, tutti i vostri dipendenti, viene fatto il test sierologico? No, ci sarà fatto un test sierologico, no. Solo in determinati casi, per esempio viene rifatto se venisse trovato un caso positivo, accertato positivo, chi è stato a contatto con la persona deve rifare tutti i test, per evitare di mettere delle persone in quarantena quando si può capire nel giro di pochi giorni se sono infetti o se sono pericolosi e se sono stati infettati. Quindi, mentre invece su tutta la popolazione, che riguarda non solo i dipendenti diretti di Alcantara, ma a tutti i lavoratori delle imprese varie che lavorano all'interno dello stabilimento, sono sottoposti a questi test sierologici. Costa molto alla vostra azienda fare questo tipo di... Ma guardi, il costo diventa comincia ad avere un certo significato nel momento in cui questi test devono essere ripetuti con una certa frequenza, di 3-4 settimane, insomma, quindi è un test che viene ripetuto nel tempo e quindi ha un suo costo. Quanto costa un test sierologico? Ah, guardi, siamo sotto le 50 euro. Ok, quindi certo è il numero e la frequenza che incidono alla fine. Certo. E poi bisogna vedere come calcoliamo i costi, invece è un costo, cioè ci sono tante cose nel corso, c'è il medico, c'è lo spazio, ripeto, appositamente, per eccetera, eccetera. Però tenere chiuso costa di più, diciamo. Infinitamente di più, no? Costa infinitamente di più, evidentemente, costa all'azienda, non è amata dal lavoratore, e costa alla società, perché poi questa gente si infetta e continua a infettare la società, e poi un giorno di cassa integrazione allo Stato costa parecchio, quindi c'è una roba che va male per tutti. Allora, buon lavoro, buon proseguimento, grazie, buona grazie. Giornata, Andrea Boragno, presidente di Alcantara. Adesso abbiamo la viabilità. Si può fare. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Mostly I'm an optimist, but my bad news is still persist. Going on about my problems, what's wrong with our world today? It may sound funny, but I give you all my money and keep on going without a doubt. Ed è con grande, grandissimo piacere, Carlo, che ti presento e presento ai nostri ascoltatori Sebastiano Favero, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, l'abbiamo annunciato prima, e adesso lui è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e ai vostri radioascoltatori. Buon 25 aprile. Buongiorno. Grazie, grazie. È un 25 aprile un bel po' diverso, no? dal solito quest'anno, presidente. Direi proprio di sì, questa pandemia sicuramente ha un po' cambiato tutte le nostre abitudini, però a me piace ricordare che il 25 aprile è proprio, magari può sembrare strano, il giorno in cui ricordare valori importanti come la libertà, la democrazia, la ripacificazione di questa nostra Italia, quindi è una giornata importante e io credo che su questo noi dovremmo comunque mantenere salda la nostra attenzione, i nostri ideali, soprattutto oggi. Oggi, che credo tutti noi con queste difficoltà e con queste restrizioni possiamo apprezzare meglio cosa significa libertà, capacità di poter muoversi, libertà ovviamente in un paese democratico, con una costituzione democratica come quella che ha la nostra Italia, e anche la necessità veramente di guardare avanti, di fare in modo di creare un'Italia unita, unita e capace anche questa volta di superare queste grandi difficoltà che ci saranno sicuramente, oltre a quella purtroppo dei tanti morti, come diciamo noi alpini, di tanti andati avanti, ma anche per il momento poi economico della ripresa. Ma se saremo uniti, io sono sicuro che sapremo andare avanti. Ecco, mi lasci solo dire una cosa, dovremmo capirlo tutti però, soprattutto chi oggi governa, chi oggi è in Parlamento, perché ci sono cose che in questi anni anche questa nostra democrazia, nata proprio da quel 25 aprile, forse ha perso. Tra questi me ne lasci accennare solo una, che è la burocrazia. La burocrazia è un tappo micidiale, un tappo soprattutto per quelli di noi che sono in difficoltà, cioè i meno abbienti, quelli che hanno meno possibilità, perché la burocrazia è un coacervo di inefficienza da un lato, di clientelismo dall'altro, e quindi anche elemento di possibili corruttele. Una carta in più non è quella che risolve il problema, una carta in più spesso il problema lo crea e crea la necessità di trovare compromessi che non si devono trovare. Presidente, allora, lei ce lo dice per l'esperienza che avete fatto in questi ultimi mesi anche, immagino. Io lo dico per l'esperienza che ho fatto come presidente dell'associazione, e ho in mente la ricostruzione del terremoto in Centro Italia, dove abbiamo ancora alcune strutture che non siamo riusciti a realizzare proprio perché c'è un iter burocratico veramente impossibile. L'ho anche da persona di esperienza professionale, ho fatto, e sto ancora per alcuni aspetti facendo l'ingegnere libero professionista da 40 anni, e ho in mente ogni provvedimento semplificativo ha sempre comportato in Italia una carta in più anziché una carta in meno. Questa è una roba incredibile ed è qualcosa che veramente oggi noi dovremmo essere capaci di superare. Oggi è il momento di saperlo superare. Poi abbiamo gli esempi di questi giorni, quando vengono indicate possibilità soprattutto per chi ne ha bisogno, per i più deboli, la possibilità di accedere a crediti, e questo viene reso difficilissimo proprio dalla burocrazia, non dalla volontà, perché la volontà anche del governo, anche di chi c'è, però bisogna capire tutti insieme che dobbiamo superare questo ostacolo micidiale. Liberiamoci anche dalla burocrazia, mettiamola così. Questo è il concetto della libertà di oggi, il messaggio che mi sento di dire a tutti noi, mettendoci tutti la propria parte e la propria buona volontà. Senta, sull'esperienza che di Bergamo, ormai famosissima, no? Perché anche l'OMS ha preso il vostro ospedale come riferimento, ci risulta. Questo ci fa piacere, sì, certo. È stata un'esperienza, appunto, 7 giorni, un ospedale, grandi risultati, grande collaborazione, direi anche, no? C'è stata anche l'esperienza con i russi, per dire, cioè lì veramente si vede cosa si può fare quando ci si mette insieme. Esatto, quello che si può fare quando c'è organizzazione in primis, perché questa è fondamentale, quindi stanno le idee, c'è il progetto, c'è l'idea chiara di cosa si deve fare, e quando poi c'è la disponibilità che i nostri volontari, assieme ai nostri, me lo lascio dire, tutti i volontari degli artigiani di Bergamo, tutti quelli che sono venuti con noi, tanti erano comunque alpini e hanno contribuito insieme, in sinergia, a fare questo risultato incredibile, e tanti che da Bergamo e dintorni ci hanno dato una mano in termini economici per poter arrivare a questo grandissimo risultato. Ma che cosa l'OMS ha, diciamo, puntato su questo? Cioè, cos'è che sta convincendo di questo ospedale? L'ospedale è il modo con cui viene organizzato l'arrivo, quindi il filtro e tutto quello che è necessario in una struttura che ovviamente ha la specificità di essere una struttura predisposta per malattie infettive. Quindi l'attenzione è molto forte a tenere separati i percorsi, e quindi ridurre al minimo la possibilità di contagio. Questo è l'elemento fondamentale. Quindi anche tutti i percorsi, non solo delle persone, ma anche del materiale, che viene tutto controllato e verificato in modo da ridurre, ripeto, proprio al minimo la possibilità di contagio. Carlo, non so se volevi intervenire, perché purtroppo non ci vediamo, sì, sennò io ho anche una curiosità. Sono molto contento intanto di sentire il presidente degli Alpini oggi, 25 Grazie. Aprile, ed ero curioso di sapere come stanno gli Alpini in un giorno come quello di oggi. Li vediamo molto attivi, e anche chi sono i volontari degli Alpini, cioè se sono tutti ex alpini, insomma adesso non c'è più il servizio di leva, quindi mi chiedevo anche chi fossero i nuovi volontari degli Alpini. Beh, allora, partendo da questa seconda parte, i nuovi volontari degli Alpini sono in gran parte alpini provenienti dalla leva, però anche tanti che non hanno fatto il servizio ma che si sono associati a noi e hanno aderito, diciamo, alla nostra possibilità organizzativa. Ecco, voglio ricordare che noi abbiamo circa 13.000 in protezione civile con la colonna mobile nazionale, più circa altri 2.000 nell'ospedale da campo, come personale preparato, qualificato, di cui la gran maggioranza è alpini, ma tanti anche sono amici degli alpini, come li chiamiamo noi, e sono con noi. In termini associativi, la nostra associazione ha circa 350.000 soci iscritti, di cui 270.000 sono alpini e il resto sono amici degli alpini, comunque sono con noi e lavorano con noi mai da anni, e noi abbiamo sempre, con i nostri campi scuola che organizziamo ogni anno, l'attenzione verso i giovani, in modo da poter sensibilizzare i nostri giovani a venire con noi. Ovviamente noi siamo anche portatori di una richiesta forte nei confronti di chi ci governa, per chiedere l'istituzione vera per quanto riguarda il terzo settore del servizio universale alla patria e un ritorno di un servizio obbligatorio per tutti i giovani, non necessariamente ovviamente militare, ma un servizio obbligatorio che permetterebbe di formare i nostri giovani a quelle attività che proprio nei momenti di emergenza sono necessarie e che purtroppo non possono essere risolte solo con l'uso di strumentazione elettronica, come oggi i nostri ragazzi, io ho 8 nipoti, quindi lo sa bene, la città, conosco, sono abituati a fare, però ai miei nipoti ho cominciato anche a insegnare cose pratiche, come si fa a usare un barile, perché io bisogna farlo. Presidente, io la devo salutare purtroppo perché abbiamo il GR24. La ringraziamo davvero tanto, le auguriamo buon lavoro e un buon 25 aprile a Sebastiano Favero, presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Alle 9, quasi 8 minuti, torniamo insieme. Ancora un ben ritrovato a te, Carlo, così mi sincero che tu ci sia. Io ci sono, buongiorno anche a te, Laura. 824 0024 per concorrere al nostro quiz della giornata. Nel frattempo cominciamo a pensare a come costruire, no, i prossimi mesi in questa fase 2 in cui vorremmo magari tornare al cinema, vedere uno spettacolo, insomma tornare un po' a fare, sia pure in modo diverso, la vita di un tempo. E allora la proposta che viene da 4 aziende specializzate nel settore spettacoli è quella del drive-in, il drive-in come quello dei film, no? Tu, Carlo, sei mai stato in un drive-in? Io mai. Ci sono stato una volta, era una specie di esperimento, ovviamente accompagnato, perché come hai ricordato prima io non ho la patente, quindi sarebbe anche buffo andare in un drive-in spingendo la macchina e poi sedendomi dentro, però sì, ci sono stato e anch'io ho lo stesso tipo di fascinazione, diciamo, dai film, più per quello che succede intorno. Infatti sono molto curioso di questa notizia. Allora, il progetto Live Drive-In ce lo presenta Giancarlo Sforza, che è appunto project manager di Utopia SRL, o Utopia, non so, buongiorno, ci dica lei. Buongiorno, è uguale, Utopia, uguale. Utopia. Secondo sé, diciamo, una parte del mondo lo pronuncia Utopia, però insomma il concetto è identico. Ok, va bene, allora insomma, comunque ha ragione sul sogno. Voi avete appunto, no, state ragionando su questa possibilità. Ci sono diverse città italiane che sono interessate a questo progetto, a questo punto. Come vorreste realizzarlo? Allora, siamo partiti, intanto buongiorno a tutti, siamo partiti da un'idea, o meglio ancora una necessità, come affrontare la fase 2, quella che è stata denominata fase 2. La fase 1 ormai la conosciamo molto bene, quindi di questo siamo certi. La fase 2 invece, purtroppo, è fin troppo. Il ritorno alla normalità, o quantomeno ritorno a poter muoverci tranquillamente, ci vorrà un po' di tempo, e questa fase 2 è quella che ci preoccupa, quella che è un po' più l'incognita. E abbiamo provato a immaginare che cosa si può fare in questa fase, perché rimanere fino a marzo 2021, come insomma le grandi agenzie hanno comunicato, che dove solo dopo un vaccino, solo dopo che tutti si siano vaccinati, si potrà tornare ai grandi concerti, negli stadi, insomma tornare a quello che era prima, e significherebbe intanto un buio della musica, dell'intrattenimento per un periodo enorme. Credo che non ci sia mai stato nella storia una roba del genere. E seconda cosa, abbiamo centinaia di migliaia di operatori del settore che, facendo un'attività diciamo temporanea nelle varie tournée, cioè sono ingaggiati per una tournée, poi quindi non hanno neanche tutte le tutele di chi ha un contratto a tempo determinato e indeterminato. Di conseguenza, arrivare a marzo al buio completamente, molte di queste professionalità secondo me le perderemo, dovranno pensare a organizzarsi diversamente, a trovare altri impieghi. Quindi al momento in cui si potrà ripartire e tutti gli artisti, tutte le produzioni non stanno aspettando altro, la domanda sarà enorme e l'offerta rischia di essere insufficiente. Quindi diciamo, che cosa possiamo fare per mettere in qualche modo una piccola soluzione? Questa del drive-in è il drive-in, se vogliamo dargli un nome, 2.0, nel senso che il drive-in, per come lo conosciamo, era dedicato solo al cinema e insomma, con delle specifiche precise. Qui abbiamo provato a pensare... È la fase 2 del drive-in. Esatto, la fase 2 del drive-in. E abbiamo pensato come poter ospitare, oltre al cinema, anche altre forme di intrattenimento. E quindi sulla base dell'esperienza che abbiamo accumulato in questi decine d'anni, abbiamo cominciato a capire come poterla dividere. Intanto è un'arena che ha tre zone. La prima zona, quella chiamata sottopalco tecnicamente, l'abbiamo dedicata a tutti i veicoli a due ruote, no? Motorini, moto, vesponi, anche biciclette, con delle aree definite e con gli spazi che ci verranno poi comunicati di sicurezza. Tu arrivi col tuo mezzo, lo parcheggi, hai due seggiolette, due traiette, insomma due posti a sedere e quindi sei all'aria aperta, mantenendo le distanze di sicurezza e soprattutto anche... Non hai il problema del parcheggio. E soprattutto non hai il problema del parcheggio e tutto quello che significa poi andare via dopo un concerto. Giustamente, metti lì la tua bicicletta e sei in prima fila, già, questo già mi sembra molto interessante. e poi c'è la seconda parte di questo drive-in, che è quello tradizionale con le automobili, però anche qui abbiamo ragionato, magari non subito, magari in una fase 2.2.3, dove è possibile, magari abbiamo lasciato uno spazio più grande in questa area di parcheggio, dove volendo si può scendere e le auto farebbero da protezione verso gli altri, quindi di fatto hai un tuo spazio dove poter uscire fuori. E la terza parte, che è quella più divertente, forse esagerata, però insomma quella che ci è venuta in mente, è dei box, tipo box auto, dove tu arrivi con la tua auto, parcheggi in questo box e con una scala interna vai sul tetto di questo box che è praticabile e diventa una terrazza. Quindi le terrazze che abbiamo imparato a conoscere diversamente in questo periodo. Quindi il tutto per cercare di... C'è un tuo loggione, insomma. Un loggione. Ma sono tutte e le terrazze sono divise una dall'altra, tipo con dei separé? No, non solo sono divise con una... essendo più alte da terra hanno bisogno per forza di una protezione, ma addirittura tra loro hanno il metro e mezzo, due... Di distacco, che è quello che al momento ci viene comunicato come necessario. Certo, ma un'ultima curiosità negli ultimi secondi: questo ha bisogno di spazi molto grandi, perché per avere tutti questi, no? Addirittura i box a un metro di distanza. La seconda cosa, mi fa notare gli ascoltatori, dice: spero che saranno macchine elettriche. Sì, effettivamente, se poi tutti arrivano, no? Ci sarà un'aria gradevole da respirare. Allora, la macchina si spegne durante il film. Ovviamente. Allora, gli spazi, noi ragioniamo al contrario. Il progetto ovviamente ha delle modularità e quindi può arrivare a un massimo di, parliamo di persone, 2.000-2.200 persone, quindi da un punto di vista di capienza è quella di un teatro grande. Non è neanche paragonabile ai grandi concerti, cioè i grandi concerti per il momento secondo me ci dobbiamo in qualche modo dimenticare, dobbiamo aspettare per tornare nei grandi concerti, ma questo è per gli spazi, parliamo che va bene anche un campo sportivo, va bene un grande parcheggio, su Milano per esempio si sta verificando la disponibilità dell'aeroporto di Linate, quello che a settembre pare non sia. Mm-hmm. Quindi diciamo è modulare. È modulare, benissimo. No, adesso noi abbiamo la faccio accelerare, perché abbiamo il momento della viabilità a proposito di auto. Quindi, insomma, possiamo immaginare di vedere qualcosa quest'estate, magari? Lo speriamo veramente molto. In questo momento tecnicamente siamo in grado di partire anche, cioè, che ci danno l'ok, in una settimana possiamo allestire già la prima, ma anche tutte insieme, volendo. Il vero problema sarà l'aspetto burocratico, che in un periodo in cui ci sono molte indecisioni potrebbe far perdere del tempo. Speriamo di essere aperti giugno, luglio, agosto, settembre. Questo è il nostro obiettivo. Grazie a Giancarlo. Allora ci risentiamo magari. Dai, sì, esatto, ci risentiamo magari al primo prestissimo. Che abbiamo... magari. Esatto, fare, abbiamo un sacco di domande, l'audio, come si sente, come si fa, mi sembra tutto molto bello. Grazie mille. Grazie a mille. Voi. Grazie. Buona giornata. Viabilità. Si può fare. Promo 24. Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfon? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfon.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfon.com/promo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora torniamo insieme, tra pochissimo ci collegheremo con Carlo Petrini per parlare di questo hashtag Io Resto Libero, di questa manifestazione che si svolgerà nel pomeriggio online per il 75esimo anniversario del 25 di aprile. Nel frattempo, Carlo, ti dico che alcuni ascoltatori ci dicono che in Corea, là dove sono sempre avanti, in Corea del Sud, pare che il drive-in lo stiamo usando anche per le funzioni religiose, hai capito? Ah, vedi quindi che si Piazza può fare. San Pietro trasformata in un enorme parcheggio. Drive-in, precisamente. Nel frattempo si è raggiunto... Senti, sì. Io volevo... No, allora guarda, rispondo solamente brevissimamente a un messaggino che è arrivato di chi mi scrive frocio antifascista eppure con la R moscia, ma non ti fai schifo? Onestamente non mi faccio schifo, perché non vedo neanche un difetto in queste tre cose che mi vengono dette, e soprattutto ricordo che evidentemente il signore che scrive non è italiano, perché gli italiani, l'Italia, la nostra Costituzione si basa sull'antifascismo. C'è molta ignoranza in giro. Dunque, volevo dire che c'è Giuseppe da Savona che ci ha chiamato. Buongiorno. Buongiorno a voi, buon 25 aprile. Grazie anche a lei, buon 25 grazie. Aprile. Credo lei ci volesse dire qualche cosa di bello in tempi brutti, vero? Sì, io facevo questa riflessione, perché in tutte le cose cerco sempre di trovare un 5% di positività. E anche in questo periodo, che sarà ricordato come uno dei periodi peggiori, almeno dell'umanità, non solo del periodo in cui viviamo, è il silenzio. Io, dopo che mi ricordo che per me questa avventura è iniziata l'8 di marzo, che da Roma sono passato, ho preso il 7 marzo, ho preso il Frecciarossa, sono arrivato a Milano, mi metto in macchina per prendere la macchina e tornare a Savona. In quella sera Toti dichiarano che tutta Italia, che la Lombardia è diventata rossa, quindi io da buon cittadino mi sono comunicato all'ASL e mi sono messo in quarantena volontaria per 15 giorni, 20 giorni quando è stato. Quindi ho vissuto a casa proprio blindato. Poi sono uscito, non avevo sintomi, stavo bene. E la cosa che mi ha colpito è stato il silenzio assoluto, che è bellissimo questo silenzio, perché anche di notte, quando mi alzavo alle 3, alle 4, magari per andare in studio, perché faccio il commercialista, a volte ci alziamo anche presto, e sentivo il rumore della notte, ma il rumore della notte è sempre un rumore di fondo di qualcosa, sempre. Certo, di auto, di quel movimento. Lavorano. Certo. Invece, ancora ieri sera, uscendo, ed erano le 9 di sera, non era ancora strana, ecco, c'era questo silenzio assoluto. Ho detto, questo silenzio mi mancherà, perché in quel momento sei solo tu, senti quasi il battito del tuo cuore, non so come dire, e dico, questo silenzio in un mondo che va di fretta, sia come pensieri che come azioni, è un qualcosa che a me resterà scolpito dentro. Mi mancherà questo, non mi mancheranno certe altre cose. Ecco, magari ci piacerebbe il silenzio senza il virus. Grazie molte davvero per questo suo intervento, Giuseppe. Buon 25 aprile allora. E buon 25 aprile anche a Carlo Petrini che ci ha raggiunto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, tutto pronto Buongiorno. Per il 25 aprile virtuale? Sì, tutto pronto. Viviamo questa bella giornata in buona compagnia. In buona compagnia a partire dalle 14.30, vero? 25 sì. aprile 2020.it sì. E lì si segue tutta la manifestazione, a cui è collegata anche una grande raccolta fondi, che le chiedo come sta andando. Ci eravamo dato un obiettivo proprio ieri sera verso le 10 è stato raggiunto, quindi siamo molto felici. Ma quello che più con due ore d'anticipo sulla data della liberazione. Sì. Ma quello che impressiona. Questa è un'ottima notizia. La moltitudine di persone che ha aderito, impressionante. E diceva appunto l'obiettivo è già stato raggiunto, ma se lo superiamo non c'è niente di male, insomma. Ah no, anzi, è tutto a beneficio di quella parte del nostro popolo che soffre la fame, che non ha una fissa dimora, quindi noi dedichiamo a loro e a coloro che si impegnano su questo fronte queste risorse, che non sono tante ma sono significative, simboliche anche. Come si fa a partecipare a questa raccolta fondi? C'è un sito che è molto semplice, 25 aprile 2020, si va lì e si può donare con la carta di credito, quindi semplificato al massimo. Non questi IBAN, non chiedevo la burocrazia, ma volevo che lei dicesse il nome del sito, 25 aprile 2020, che tra l'altro è anche il sito che oggi ricorda i tantissimi modi in cui si può festeggiare, come giustamente ricordava lei, rimaniamo in compagnia ma a distanza, quindi sarà un 25 aprile completamente diverso. Sì, e con l'intervento di tre donne, quindi sarà un 25 aprile al femminile. Quindi avete dato una svolta anche su quello? Eh sì, perché sia dal punto di vista storico che dal punto di vista anche di progettualità, il ruolo delle donne è stato importante e quindi metterlo in evidenza anche in questi momenti significa essere onesti con noi stessi. Senta, mi è venuto in mente un ricordo personale, ma poi dopo magari con Carlo ne riparliamo e con gli ascoltatori. Invece le volevo chiedere, visto che lei la conosciamo tutti anche per il suo legame con il mondo dell'agricoltura, ecco, ci dobbiamo preoccupare in questo momento dei piccoli produttori italiani? Ne sentiamo tanto parlare e noi poi dopo nel corso della trasmissione ci torneremo, però volevo sentire da lei. Sì, la situazione in campo alimentare sarà molto problematica. Di tutta la filiera del quadro alimentare la componente più in sofferenza dei prossimi mesi sarà la ristorazione e la piccola distribuzione. Tenete conto che ristorazione, piccola distribuzione, osterie, sono tutti luoghi che rappresentano il nostro modo di essere italiani. Immaginare dei borghi nelle montagne o negli Appennini oppure qui nelle mie Langhe senza un negozio, senza un'osteria, significa perdere l'Italia. L'Italia è fatta anche da questa economia di relazione, non solo del profitto. Per cui sarà necessario fare in modo che tutta la filiera riscopra una solidarietà e che gli uni aiutino gli altri per uscire da questa situazione difficilissima. Forse si può trovare anche questa, cioè si può avviare questo processo negli acquisti quotidiani anche nelle grandi città, se stiamo, no, sul chilometro zero. A me pare che ci sia molta voglia anche di chilometro zero, nel senso che sono spesso coloro che poi ti portano la spesa a casa, no? Quindi forse sì, è un momento storico in cui stiamo su un crinale, si può andare di qua o di là. Sì, bisogna fare delle scelte e, se possibile, aiutare l'economia locale, perché aiutando l'economia locale si creano come dire dei processi virtuosi sul territorio, mentre invece molte volte noi aiutiamo un'economia di cui non beneficia né il nostro paese e neanche le nostre comunità. Quindi è certo, importante rafforzare l'economia locale, significa i contadini che sono sul territorio, la comunità, il vicinato, ecco. Questo è un elemento che viene preso in poca considerazione, ma che avrà un grande ruolo per i tempi a venire. Ecco, ma infatti, come stava dicendo anche Laura, non potrebbe essere anche un buon momento questo, nel senso che abbiamo capito che per l'agricoltura sarà un momento terribile, anche perché non ci sono tutti gli stranieri che vengono a raccogliere, però questo immagino che tocchi soprattutto le grandi coltivazioni. Invece abbiamo visto che rinascono gli orti, le persone che si piantano il proprio piccolo orto per non aver poi bisogno di dipendere da qualcun altro. Quindi magari per le cose più piccole, per, diciamo, per il mondo slow food, non potrebbe essere anche quasi un buon momento? Il buon momento lo vedo ancora un po' azzardato definirlo tale. Certo, però che bisogna avere molta fantasia per innescare questa diversa concezione dello stare assieme e dell'economia. Bisogna lavorare perché questo concetto passi. Non esiste solo l'economia del profitto fino a se stesso, della misurazione esasperata del PIL, ma esistono altri elementi che devono essere presi in considerazione: i beni comuni e i beni di relazione, che non li troverete nei bilanci classici delle aziende, ma invece sono una cosa molto importante anche dal punto di vista economico. Io mi porto a casa assolutamente la sua espressione economia di relazione, che mi sembra molto bella, giusta, e bisogna rifletterci. Le volevo chiedere solamente un'ultima cosa, che è quella alla quale faceva riferimento anche Laura. Lei ha scritto un libro, Un'idea di felicità, assieme a Sepulveda, e le volevo chiedere un ricordo di Sepulveda, ovviamente se c'ha voglia. No, lo faccio con piacere, perché per me è come parlare di un fratello, quindi l'avventura amicale che abbiamo avuto in questi ultimi 15 anni è stata una bella esperienza. È nata attraverso un'idea che lui ha avuto di utilizzare la chiocciola, che poi è simbolo anche di slow food, per una sua bellissima novella. E in quell'occasione ci siamo conosciuti e poi frequentati, e poi abbiamo scoperto tante affinità, oltre alla alla data di nascita che siamo della, che siamo de, eravamo della stessa, della stessa, dello stesso anno di nascita, e ho avuto, come dire, il senso di capire che c'era molta affinità tra quello che pensa Slow Food e le idee di Louise. Aggiungo una cosa, che nel novembre del 2016 ho avuto la fortuna di realizzare un incontro a Milano con Sepúlveda e con Pepe Mujica, l'ex presidente della Repubblica Uruguayana. Sì. E a Milano proprio, e la sala affollatissima, la gente non è riuscita a entrare tutta. In quell'occasione ho capito quanto è importante la passione che i sudamericani mettono nei propri ideali. Hanno delle idee, ma poi le vivono con passione e con coerenza. Mancava il terzo, che è Papa Francesco, ma questo per dire che quel continente ci dà delle persone straordinarie che praticano le loro idee, non a chiacchiere, ma nei fatti le praticano. Questo è l'esperienza più bella che io porto della conoscenza di Luis Sepúlveda e di Pepe Mujica. Allora, pratichiamo oggi pomeriggio a partire dalle 14.30 il sito 25aprile2020.it. Carlo Petrini, grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi e buona festa. Pausa. Grazie mille, buona liberazione. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E tra pochissimo avremo il nostro concorrente, anzi la nostra concorrente. Vedo comparire sul monitor il nome di Gabriella da Trento. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gabriella. Allora, pronta per il quiz? Proviamo. Allora, Jadav Molai Payeng è uno dei tanti eroi sconosciuti che lotta per l'ambiente. Viene dall'India e ha portato a termine un'impresa impossibile migliorando l'ambiente in cui vive. Cosa ha fatto? Risposta numero 1. Ha piantato fiori colorati sui tetti della città componendo un disegno visibile solo dallo spazio. Risposta numero 2. Ha piantato da solo oltre 550 ettari di bosco vicino al fiume per prevenire future alluvioni. Risposta numero 3. Ha realizzato scivoli altalene per i bambini riutilizzando le ossa animali gettate dai macellai. Quindi Gabriella, i fiori sui tetti, gli ettari di bosco oppure scivoli e altalene riutilizzando ossa? In osso. Scelgo la terza. No. Gli scivoli e le altalene fatte in osso. Non era questo. Mi sembrerebbe un riciclo. Un'operazione molto difficile. Credo che servano dei dinosauri ogni tanto. È vero. No, il nostro Payeng ha fatto dell'altro, no? Ha piantato ettari di bosco, esatto, vicino al 550 fiume. 550 ettari di bosco vicino al fiume per prevenire le future alluvioni. Vabbè. Però la ringraziamo di aver chiamato e di averci fatto anche sorridere. Grazie molte Gabriella, buon proseguimento, buon 25 aprile. Buongiorno. I was your boyfriend when we were 15. It's the happiest that I've ever been. Even though we didn't understand how to do much more than just hold hands. There's so much about you I miss. The clumsy way we used to kiss. I wish I convinced you you'd made a mistake. If memory serves, we're still on a break. Other girls went and other girls came. I can't get over my old flame. I'm still in love with you. A proposito di donne 25 aprile, Carlo, il mio ricordo personale, voglio affidarlo anche a questo microfono, perché Carlo Petrini mi ha fatto venire in mente la mia maestra delle scuole elementari. Io all'epoca ero a Savona e facevo appunto la scuola elementare, lei si chiamava Anna Clerico. E durante una visita istituzionale in città, il Presidente della Repubblica Pertini venne a salutarla a scuola, perché lei era stata partigiana con lui, e quindi io ebbi la ventura di stringere la mano al Presidente della Repubblica, che inaugurò anche la nuova scuola. Quindi così ho ricordato, ecco, anche questa donna che ha fatto sicuramente parte della mia vita e che molto mi ha dato e che mi ha consentito di stringere la mano al Presidente in quel tempo. Hai fatto benissimo, Laura, hai fatto assolutamente benissimo, perché come dicevamo prima, veramente la Resistenza e la festa di oggi è veramente una festa femminile. Ricordiamoci quanto hanno fatto le donne, le staffette, le donne partigiane, ricordiamoci soprattutto che al referendum subito dopo la liberazione, il famoso 2 giugno che ancora festeggiamo, è la prima volta che le donne votarono in Italia. Quindi per dire quanto finalmente ci si rese conto che... quanto fossero la parte positiva del paese. Che ci fossero, esatto, anche quanto costruissero sì. Il paese. Allora, cambiamo esatto. Argomento, ma restiamo nel tema di prima dell'agricoltura che abbiamo già introdotto con Carlo Petrini, e lo facciamo con il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, l'abbiamo chiamata Buongiorno. Per appunto parlare un po' di questa crisi che vive l'agricoltura e di quello che si può fare, diciamo, no? È stato lanciato da parte vostra una piattaforma che si chiama AgriJob, che penso voglia mettere in contatto, no, domanda e offerta di lavoro, ma soprattutto vorremmo capire anche chi cercate, ecco, chi può venire a lavorare nei campi. Sì, l'agricoltura, come voi sapete, è un settore a cui è stato chiesto di produrre, noi non ci siamo mai fermati, è stato ed è un momento complicato, difficile, dove ovviamente noi siamo umani, quindi abbiamo anche avuto paura in questi giorni di poter contrarre insieme ai nostri operai il virus, quindi vi assicuro non è stato semplice, ma io credo che c'è un dato fondamentale che ormai è sotto gli occhi di tutti, c'è un settore importante che è l'agricoltura, senza la quale non se ne può fare a meno, ed è importante appunto che l'agricoltura possa continuare a produrre, ma l'agricoltura deve essere messa nella condizione di produrre. Noi abbiamo bisogno urgente di avere in questa fase, la primavera, di lavoratori. L'agricoltura mediamente dà lavoro a 1 milione di cittadini e durante alcuni momenti dell'anno raggiunge dei picchi. Noi in questa fase abbiamo un'ulteriore richiesta di circa 200.000 lavoratori che di solito utilizziamo con operai che da anni vengono a lavorare da noi, ma che vengono fondamentalmente da fuori Italia. Sono operai che noi utilizziamo da anni e che sanno cosa si deve fare, perché questo è un momento in cui ci sono le epoche delle raccolte, ci sono le epoche delle manutenzioni all'interno di tante tante coltivazioni. E quindi noi idealmente abbiamo chiesto la possibilità di continuare a lavorare con chi ovviamente in questi anni ha accompagnato l'attività produttiva, e abbiamo chiesto quindi al governo di potersi attivare, come hanno fatto già in Germania e in Inghilterra, con i corridoi verdi in Europa, ossia sono dei passaggi obbligati che si possono fare andando a prendere degli operai ad esempio in Romania, metterli in sicurezza nel loro trasporto, ma soprattutto poi fare in maniera che possano lavorare in Italia in massima sicurezza con dei standard, dei protocolli già elevati come quelli che già stiamo utilizzando. Quindi per noi questa sarebbe l'ideale, ma perché? Perché sono operai con cui lavoriamo da anni. Se questo non sarà possibile, è evidente che dovremo cercare in Italia. Per questo abbiamo lanciato questa piattaforma digitale che è AgriJob, che è una piattaforma in cui c'è la domanda e l'offerta di lavoro. Le aziende di Confagricoltura hanno caricato quelle che sono le loro necessità, chiunque va sul sito di Confagricoltura, c'è uno spazio dedicato ad AgriJob, entra e si propone, ovviamente deve dire chi è, quali sono le sue attese, dove vive e soprattutto quali sono degli skills, perché noi in questi giorni abbiamo ricevuto migliaia e migliaia di richieste, ovviamente le stiamo valutando, molte sono state già girate alle aziende, perché poi ovviamente non tutti quelli che sono i livelli che si presentano possano essere poi assunti. Noi comunque in questo stiamo già dando invece una risposta importante sia alle aziende che ai lavoratori, perché molte sono le richieste che già hanno trovato lavoro nelle nostre aziende agricole. Dunque, alcuni capisco che abbiano, cioè ci sia una necessità di specialisti, no? Specialmente in certi momenti, in certi settori, ma ci saranno vari livelli di professionalità richieste, immagino. Assolutamente sì, noi abbiamo vari livelli di professionalità, ossia un conto è fare la raccolta, ad esempio, della frutta primaverile o degli ortaggi. Un conto è fare delle potature, perché le potature ovviamente è un qualcosa di più delicato che bisogna saper fare. Un conto è portare un trattore, un conto è poter andare ad aiutare all'interno di una stalla. Quindi voi capite che i livelli conoscenza ovviamente sono diversi, e in funzione anche di quelle che sono del background delle persone che si propongono, perché va detto anche che l'attività agricola, in fondo tutto ce l'abbiamo tutti un qualcosa di agricolo nella nostra storia familiare. Allora, alcuni ovviamente hanno una storia familiare e quindi è più semplice poter dar lavoro a loro. Altri che magari non hanno mai avuto nessuna esperienza in campagna, quindi diventa un pochino più difficile in alcuni ambiti poter dare una forma di lavoro. Magari può andare bene in un'altra, ma non specificatamente in quella magari della loro provincia. Carlo? Certo, ma senta... Sì, le volevo chiedere, intanto è molto buono ricordarlo dopo tanti anni di retorica dicendo gli stranieri che vengono in Italia a portare via il lavoro, a ricordarci che qua ci sono 200.000 lavoratori che sono stranieri, perché gli italiani quel lavoro non lo vogliono fare, quindi per fortuna che vengono gli stranieri a farlo, e lo fanno da un sacco di anni e va bene così. Quello che le volevo chiedere è... l'ipotesi che era stata avanzata di far lavorare nei campi una parte delle persone che ricevono il reddito di cittadinanza, è una panzana, è una proposta seria, voi come la vedete? No, noi la vediamo bene, perché l'abbiamo proposta noi, quindi non è per noi una panzana. Noi abbiamo detto, allora, in agricoltura forse... come disse all'epoca un ministro, non fa figo poter lavorare in agricoltura, e oggi invece ci accorgiamo che invece va molto di moda lavorare in agricoltura. Questo a me fa piacere, però è evidente che, come diceva lei, in tanti anni pochi si sono avvicinati a noi, e quindi per non far mancare il cibo agli italiani necessariamente siamo ricorsi a operai non italiani. Oggi c'è un ritorno e di questo ne siamo contenti. Va bene e siamo felici di tutto ciò. Allora, in questa fase in cui magari un operaio dall'India non può venire perché in India c'è il lockdown, è evidente che abbiamo bisogno necessariamente di ricorrere agli italiani. Noi oggi abbiamo due generi di persone che possono venire, allora, chi è senza lavoro, chi oggi il lavoro ce l'ha ma momentaneamente magari l'industria è ferma e quindi percepisce un sussidio, oppure chi oggi non ha il lavoro ma percepisce comunque il sussidio ed il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo fatto una proposta al governo, che è stata quella di operare all'interno ovviamente sempre del contratto collettivo nazionale, quindi da una parte poter utilizzare degli strumenti di flessibilità già previsti per chi oggi non ha lavoro o per chi oggi ha lavoro ma percepisce ad esempio la cassa integrazione, e quindi su questo attendiamo delle risposte. Oppure abbiamo anche detto, ci sono molti cittadini italiani che percepiscono il reddito di cittadinanza che potrebbero momentaneamente venire a lavorare in campagna, però bisogna fare in maniera che queste persone possano veder garantito loro il loro diritto a percepire il reddito di cittadinanza, perché noi non siamo in grado di offrire un lavoro stabile e duraturo. Noi possiamo offrire un lavoro temporaneo per alcuni mesi e quindi non vogliamo che possano poi perdere i diritti acquisiti. Allora, solo per questa fase temporanea di lavoro sospendere il reddito di cittadinanza per poi farglielo riprendere al momento in cui il lavoro in campagna terminerà. Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, la ringraziamo intanto per averci chiarito bene il quadro, e magari ci risentiamo se riusciremo, insomma, nelle prossime puntate, in modo da vedere come procedono le cose, insomma, no? come si riesce a gestire questa situazione. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Grazie a tutti voi, buona giornata. Viabilità. Si può fare. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci arrivati al punto della classifica delle migliori buone notizie della settimana. Siamo pronti ad iniziare, vero Carlo? Certo. Allora, inizio io con la notizia al quinto posto. Il Cirque du Soleil trasmette gratis e in streaming i suoi spettacoli più belli. Una via di fuga dalla vita di tutti i giorni attraverso la gioia e la fantasia dei nostri spettacoli. Così il favoloso circo lancia il suo portale di show digitali. Si chiama Cirque Connect. È scritto Cirque Connect. Ogni settimana, in genere il venerdì sera, l'appuntamento con streaming gratuito di uno speciale di 60 minuti con i momenti salienti degli show del gruppo, ovviamente fino a chissà quando, primavera 2021 pare, non ci saranno nuovi spettacoli e quindi non ci resta che lo streaming. Al quarto posto, la notizia è piccolina, ma mi sembra un perfetto cose belle in tempi brutti, oppure come abbiamo detto prima, anche il virus ha fatto cose buone, ovvero IKEA ha finalmente svelato la ricetta per fare a casa le sue mitologiche polpette. L'ha fatto tramite i suoi account social, ma se digitate su internet polpette IKEA la trovate con molta facilità. La cosa molto divertente è che questa ricetta è stata presentata come una istruzione da montare, come le istruzioni per montare i mobili, solo che qua invece si fanno le polpette. Quindi buon appetito o smaklig maltid, come si dice in Svezia. Al terzo posto il boom dello shopping online su Giusto, una piattaforma cooperativa in grado di coniugare la sostenibilità delle aziende con la qualità dei prodotti e dei servizi. È cresciuta del 300% nelle vendite e il lockdown ha portato con sé nuove realtà produttive, percorsi di autovalutazione, nuovi distretti produttivi. Tra l'altro Giusto era stata nostra ospite proprio qui a Si può fare. A 4 mesi dalla nascita, ne ha battuto ogni record, mostrandosi più che efficiente nelle consegne e nel customer care. E così siamo molto felici, appunto, di comunicarvi questa notizia. E al secondo posto c'è Diego Costi, che ha saputo combinare la necessità dovuta alla sua malattia con la passione per la cucina, riuscendo a trovare una soluzione creativa per i pazienti affetti dall'infiammazione cronica intestinale. È tra i 25 ragazzi che hanno ricevuto gli attestati d'onore di Alfiere della Repubblica dalle mani del presidente Sergio Mattarella. È un 15enne ligure e ha ideato un gelato che, grazie ai suoi ingredienti e alle sue caratteristiche, può essere mangiato da chi è affetto dal morbo di Crohn, un'infiammazione cronica intestinale che può colpire tutto il tratto gastrointestinale. Complimenti a questo neogelataio quindicenne, Diego Costi. E siamo arrivati al primo posto, e al primo posto delle buone notizie della settimana abbiamo scelto di mettere le donazioni arrivate ormai a 657 milioni di euro per l'emergenza, che sono stati impegnati su 801 iniziative. A dirlo sono i dati dell'Osservatorio Italia No Profit, il più grande avvenimento solidale della storia recente italiana. I numeri sono appena appunto stati diffusi, una testimonianza testimonianza della volontà crescente dei cittadini di conoscere ed essere orientati verso una donazione più consapevole. Tra l'altro si scopre da questi dati che la solidarietà rispetto all'Italia non ha avuto confini, perché le donazioni sono arrivate anche da Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Francia, questi almeno i 5 paesi con il maggior numero di visite sulla piattaforma Italia No Profit. Al 13 di marzo c'erano 11 ospedali, 7 campagne di crowdfunding, oggi ci sono invece 90 ospedali e 53 di campagne di crowdfunding che sono state validate. E a questo punto sentiamo la nostra ospite, ascoltatrice Teresa da Ascoli Piceno. Buongiorno Teresa. Buongiorno e buona festa a tutti voi. Grazie, buona festa anche a lei. Per cosa ci ha chiamato Teresa? Dunque, pensando alla liberazione, pensando alla libertà di questo giorno che coincide poi con la festa di San Marco, pensavo alle tante persone ancora chiuse in casa e che possono quindi sperimentare un senso di prigione, no? Ecco, e allora volevo indicare dei testi di cui uno sono l'autrice, pubblicati da Amazon e usciti di recente, che possono in questo senso aiutare a fare un percorso di libertà interiore e quindi di discernimento. Il testo di cui parlo sono I fiammiferi di Maria, appunto di Teresa Girolami, Edizioni Oggi. Ma scusi, okay, però sta facendo la pubblicità, esatto, del suo libro? In una certa misura lei sta facendo la pubblicità del suo libro. Ho dovuto presentare ciò di cui parlo, penso. Comunque è un testo, certo, dove vengono praticamente messe in evidenza, inizia con una tela del Caravaggio, la Madonna dei Pellegrini, sì, che mi corrisponde come esperienza. Questi pellegrini dai piedi sporchi, gonfi, che hanno fatto un lungo cammino appunto di libertà e che si accostano a Maria, la madre di Dio, non come a un essere superiore, ma una di loro. Beh, Teresa, ok. Certo. Allora, certo, ci ripeta solo il titolo, molto, perché ci si ripeta ma solo il, no, titolo. Ma dai, ormai che ha chiamato, ci dica il titolo di nuovo. I fiammiferi di Maria. Benissimo, grazie molte Teresa, buon proseguimento d'ascolto. Io do il benvenuto anche invece a Mara Moioli. Buongiorno Mara Moioli. Buongiorno. L'abbiamo cercata per mari e per monti, direttore operativo di Italia No Profit. Volevamo commentare con lei questi milioni che sono veramente arrivati, no, sulla piattaforma, attraverso la piattaforma, alle varie iniziative. È veramente stata una risposta, direi, senza precedenti. Fortunatamente la situazione non ha precedenti, in effetti. Sì, esatto. È una situazione sicuramente senza precedenti e speriamo che non ce ne sia più neanche la necessità. Però la cosa interessante è che hanno risposto veramente in tanti, dal privato cittadino che si è attivato con aderendo a iniziative di raccolta fondi o attivandosi in prima persona per raccogliere fondi in favore degli ospedali e poi anche di enti non profit, ma anche tutti i soggetti come aziende, fondazioni, e si sono attivati tutti insieme per appunto andare a supportare e a trovare delle soluzioni per l'emergenza. Senta, ma ciascuno su questa piattaforma, cioè voi avete, diciamo, collezionato, no? Tutte le iniziative in modo che passassero solo, in modo da facilitare, diciamo, anche la ricerca. Cioè io voglio donare qualcosa a un certo ospedale, attraverso di voi raggiungo quell'ospedale specifico. Vanno all'ospedale specifico poi perché c'erano state delle discussioni su questo. Sì, allora abbiamo fatto un lavoro molto importante con anche alcune realtà che hanno collaborato con noi, l'abbiamo fatto insieme a loro, in particolare ad ASSIF, che è l'Associazione Italiana dei Fundraiser, e rispetto agli ospedali abbiamo fatto una mappatura di tutti gli ospedali che avevano una pagina in cui comunicavano i dati bancari per supportarli in virtù proprio dell'emergenza sanitaria. E anche rispetto alle iniziative di raccolta fondi attivate spontaneamente sulle varie piattaforme da cittadini e dai privati, abbiamo fatto una verifica insieme ad ASSIF proprio per verificare che l'ospedale fosse informato e che avesse un collegamento diretto con l'iniziativa, in modo tale da garantire di fatto effettivamente la destinazione dei fondi raccolti. Parallelamente abbiamo fatto anche altre iniziative con tantissimi altri partner e tutta la parte di mappatura di quello che è successo e quindi come hanno reagito aziende, fondazioni, quanti soldi hanno erogato e quanti donazioni di beni, perché in questa emergenza sono state tante anche donazioni di beni e di servizi che sono state fatte a ospedali o comunque a enti non profit, appunto. E in questo caso abbiamo visto appunto una solidarietà che si è mossa a più livelli in maniera congiunta. E quest'altra mappatura l'abbiamo fatta con un'altra importante organizzazione che si chiama Stifero, che è l'associazione delle organizzazioni degli enti erogatori italiani. Grazie a Mara Moioli per il lavoro che hanno fatto con Italia No Profit e grazie a tutti voi che avete anche donato e avete contribuito, diciamo, in questa emergenza, e vediamo i numeri che sono davvero consistenti. Carlo, ci dobbiamo salutare. Sì signori, volevo salutare anch'io tutti, dire buona liberazione a tutti e ringraziare anche, visto che ho letto solamente un brutto messaggino, ma sono arrivati tantissimi messaggini invece stupendi e molto gentili e molto carini, li ringrazio tutti insieme e buona liberazione. Danilo Di Trani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari in assistenza oggi, Filippo Aureggi in regia, c'è GR24 da Laura Bettini, a domani.